La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, 16:32, primi 45 secondi, iniziamo ad avere più pubblicità, ma soprattutto iniziamo a iniziare in ritardo, quindi vuol dire che entriamo nella parte buona dell'anno, ohimè. Allora vi dico subito, nel ringraziarvi dell'ascolto in diretta in podcast e nel ricordarvi che è aperta questa gara a iscrivervi per partecipare alle trasmissioni che organizzeremo sulla questione giovanile, chi qua non riesce ad assecondare la propria vocazione o chi se ne va o ha deciso di andarsene o se n'è andato anni fa proprio per assecondarla altrove e allora ci spiega dove, come e perché l'ha fatto e con che risultati, e quindi si parla anche di mobilità per tutti coloro che hanno un lavoro autonomo o hanno aperto un'azienda, eh? Non stiamo parlando solo di percorsi universitari e post-universitari. Scrivete la versione di Oscar, @radio24.it, già avete scritto in parecchi e quindi dalla prossima settimana cominciamo. Ma oltre questo, diciamo subito di che cosa parliamo oggi. Traiamo spunto, non per questo vi rinvio a domani alla trasmissione con Alessandro Mina, la sentenza intanto che è intervenuta la Corte Costituzionale, lo sapete, i tre quesiti sul lavoro presentati dalla CGIL. La Corte Costituzionale, deludendo la CGIL, ha detto no a quello più politico, cioè all'abrogazione della disciplina meno vincolistica dell'articolo 18 dell'ex statuto dei lavoratori, che con il Jobs Act ha invece varato le tutele crescenti nel tempo, i contratti a tutela crescente. La Corte ha detto no perché il quesito è manipolatorio e quindi è creativo, perché non produceva l'effetto abrogativo di tornare alla vecchia disciplina sopra i 15 dipendenti, ma la chiedeva sopra i 5 dipendenti. E per questo, malgrado un precedente opposto che era avvenuto con Zagrebelsky, proprio sui temi del lavoro, Zagrebelsky presidente della Corte Costituzionale, la Corte ha detto no a questo e quindi ha levato il più della bomba politica che poteva essere quel referendum. Restano invece gli altri due quesiti, quello per l'abrogazione dei voucher e quello per l'abrogazione delle norme in termini di corresponsabilità di appaltatori e subappaltatori sulle norme del lavoro. Meno esplosivi, forse sul primo il Parlamento interverrà con delle modifiche rispetto alla disciplina attuale. No, noi oggi parliamo di un altro tema, cioè parliamo della situazione della sanità nel nostro paese, prendendo come spunto la presentazione domani viene in Senato, quindi anticipiamo oggi alcuni degli elementi del 14° rapporto annuale appunto sulla sanità italiana, che viene predisposto da chi? Dall'AIOP. Che cos'è l'AIOP? È l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata, cioè i privati convenzionati, che sono un pezzo fondamentale della nostra offerta sanitaria. Nel rapporto, che sono 270 belle paginotte, vengono soprattutto esaminate due grandi questioni. La prima, e vedremo di che cosa si tratta, è quella della deflazione della nostra offerta sanitaria, che ha due corni della questione, e la seconda è l'effetto che questo ha sugli italiani, nel senso di quanti, chi, come e perché rinviano o annullano le prestazioni di cui avrebbero bisogno sanitarie. E quindi che cosa questo significa per il medio-lungo periodo in un paese? Credere di risparmiare forse in questo modo? No, perché i costi poi possono nel medio periodo maggiori e soprattutto peggiora la salute degli italiani. Quindi qui c'è un grande problema. Quanto alla deflazione, io mi limito, prima di presentarvi l'ospite e di farci dire da lui le molte riflessioni interessanti per inquadrare che cosa sta avvenendo nel complesso della sanità pubblica italiana, solo qualche cifra. Allora, noi siamo in questi anni, per effetto della necessità di rientro della finanza pubblica, in anni in cui la spesa sanitaria, la spesa ospedaliera pubblica diminuisce. Se uno guarda prezzi costanti, che è la maniera più corretta per evitare il fattore nominale, nel nostro paese tra il 2010 e il 2014 la spesa sanitaria è diminuita del 3,7%, la spesa ospedaliera è diminuita del 4,1%. Si è ridotto il numero tra 2009 e 2014 dei posti letto, sono scesi del 9,2% per effetto della razionalizzazione dell'offerta ospedaliera e quindi dei programmi di rientro che hanno interessato e stanno interessando molte regioni italiane, un rientro coatto della spesa pubblica sanitaria, si concentrano quasi tutti nel centro e sud, tranne Piemonte che è nel nord. Sono diminuiti, come vi ho detto, il numero dei posti letto, meno 9,2%, sono diminuiti il numero di ricoveri molto considerevolmente, meno 18,3% tra il 2009 e il 2014, sono diminuite le giornate di degenza in questi anni del 14%. Quindi c'è un grande sforzo in corso, da una parte sono tagli, dall'altra uno sforzo di ridefinire l'appropriatezza delle prestazioni, perché altrimenti tagli di queste proporzioni significherebbero, se non c'è una riflessione approfondita e una scelta oculata nelle scelte poi di gestione, di riorganizzazione e riallocazione delle risorse, sarebbero tagli mostruosi. Tenete conto che naturalmente negli altri paesi OCSE la spesa sia sanitaria che ospedaliera sale, quindi noi stiamo perdendo. Rispetto a questo però, ripeto, se andiamo a vedere i ranking internazionali, il nostro servizio sanitario se la batte molto bene, è comunque giudicato nella parte elevata dell'offerta di servizio. Se andiamo a vedere gli oneri per gli utenti sono massicciamente aumentati, però, Tra il 2009 e il 2015 i ticket per le prestazioni sono cresciuti del 40,6%, andando a vedere, sempre depurati dell'effetto nominale, quello che è uscito dalle tasche degli italiani, del 40,6%. Sono aumentati del 21,9% gli oneri a carico degli utenti per le visite intramenia a pagamento negli ospedali pubblici. Sono aumentate del 76,7% le spese per i ticket farmaceutici, e a tutto questo, gli aumenti di spesa dalle tre diverse componenti a carico degli utenti, si è sommato un aumento molto significativo delle addizionali IRPEF, che sono classicamente dovute adottate nelle regioni a rientro coatto. Perché anche qui 2009-2015 gli incrementi, se andiamo a vedere le diverse regioni che le hanno adottate, vanno da un minimo del 23,6% a un massimo addirittura del 124%. Ecco, risultato, come si spiega nel rapporto, la percezione di aggravamento e di logoramento delle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale è molto alta non solo tra gli italiani, molto alta anche in coloro che sono i responsabili dell'offerta sanitaria, delle due componenti, quella direttamente a gestione pubblica e quella invece dei privati accreditati. A tutto questo, fine della mia introduzione, noi aggiungiamo però un grande problema di fondo. Per capire gli squilibri della sanità italiana, non bisogna mai sottovalutare un fenomeno fondamentale, quello della migrazione interna da regione a regione, per le prestazioni sanitarie e per le degenze ospedaliere. È un fenomeno che, malgrado il numero sembri diminuire dal 2006, dopo anni e anni di continua crescita, ma se andiamo a vedere e teniamo conto della diminuzione dei ricoveri, che come vi ho detto è a doppia cifra, del 18%, delle giornate di degenza, in realtà continua anno dopo anno a salire. Oramai, con questa progressione che addirittura aumenta ancora di più nel 2015, noi ci candidiamo ad arrivare al 10% del totale della degenza. Questo fenomeno è un fenomeno molto rilevante, perché a fronte dei vincoli posti nella regione del sud a rientro coatto, a fronte dei vincoli che in questi anni sono stati posti al segmento di più elevata dinamicità nella soddisfazione proprio della componente di più alta qualità della domanda sanitaria e ospedaliera, cioè da parte dei privati accreditati, perché sono stati posti loro dei vincoli molto pesanti in questi anni, dei vincoli in termini nel 2012 per gli anni successivi di tagli delle risorse, tagli a tavolino delle risorse per tutti i privati accreditati, dei limiti organizzativi per cui le regioni a rientro coatto devono ricorrere per la rimodulazione dell'offerta alla componente solo pubblica e non a quella privata, che pure è la più dinamica nel soddisfare la componente più elevata in termini di qualità, intensità e difficoltà degli interventi. E terzo limite, quello anche più recente, da un anno e mezzo a questa parte, nell'utilizzo della professionalità dei medici che vengono pensionati dal componente pubblica-pubblica, e che si è pensato bene di dire ai privati accreditati: voi non li potete utilizzare. Per effetto di tutto questo, in presenza di una, diciamo, mobilità tra le diverse regioni per l'offerta sanitaria e l'offerta ospedaliera molto elevata, come vi ho detto, è in continuo aumento. Questo significa, in parole povere, un impatto sempre più bestiale sul sud del nostro paese per la parte più qualificata dell'offerta sanitaria. La gente deve prendere il treno, l'aereo e andarsene in Lombardia, in Emilia-Romagna, eccetera, eccetera. Questo fenomeno però, alla luce di tutti i vincoli che ho tentato sinteticissimamente di ricordarvi, diventerà sempre più grave, non meno grave. E quindi qui c'è un enorme problema di come razionalizzare e cambiare le norme della razionalizzazione dell'offerta pubblica sanitaria nel nostro paese. Perché se continuiamo di questo passo, noi colpiamo i più deboli, quelli che in metà, più di metà del paese hanno le patologie più serie. Gli abbiamo chiesto molti soldi in più, sia per la componente diretta, con partecipazione diretta, ticket e così via, sia per la componente fiscale. E in cambio, però, l'organizzazione pubblica gli offre una prospettiva di sicuro peggioramento della soddisfazione delle loro aspettative, delle loro domande. Fine della mia opinione. Io sarei per un cambio di marcia, però ci spero poco. Allora, sentiamo però da chi rappresenta l'AIOP e presenta il rapporto, come la pensa e se io sono troppo pessimista oppure no. È con noi il presidente appunto dell'AIOP, presidente del San Raffaele anche a Milano ed è ordinario di Igiene e Organizzazione Sanitaria all'Università di Pavia, Gabriele Pellissero, che ringrazio per essersi reso disponibile per anticipare a questi microfoni il rapporto che presenta domani mattina. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giannino e anche a tutti gli ascoltatori. Troppo pessimista, che dice? Insomma, bisogna vedere, è una cosa, una medaglia che tante facce. Prima di tutto bisogna dire che noi abbiamo un buon servizio, ma soprattutto un servizio sanitario nazionale strepitoso rispetto a quello che paghiamo. E questo è una cosa, quasi un record incredibile. Cioè, quando andiamo a vedere quanto spendiamo e che cosa diamo ai cittadini italiani, bisogna dire che veramente è una delle cose in cui questo paese si sta globalmente rivelando come bravissimo in Europa. Se allora, pensiamo, mi scusi, che spendiamo in termini di PIL quasi un terzo, cioè diciamo due volte e mezza in meno di quello che spendono gli americani tra pubblico e privato, per avere ancora un disastro. Ecco. Va bene, ma gli americani non li consideriamo, esatto, su un altro continente, un altro, no, ma guardiamo i tedeschi francesi. I tedeschi e i francesi spendono in soldi, dai 60 ai 100 miliardi all'anno in più per assistere una popolazione che grosso modo è uguale come numero, no, e che non è che si ammali in modo così diverso dalla nostra. Quindi questo, diciamo, è un grandissimo risultato, però è un risultato, qui è il lato negativo della medaglia che non si convince, perché il sistema, a furia di avere questo regime a specchietto, di non avere risorse, soprattutto quelle risorse che servono a costruire nel tempo una sanità buona, e questo sistema a un certo punto comincia a mostrare un logorio. Poi su questo logorio si sono innescate delle azioni legislative specifiche negli ultimi anni che devo dire dal nostro punto di vista sono profondamente criticabili, perché hanno combinato un pasticcio, nel senso che da un lato hanno ristretto significativamente la risorsa economica. Guardi, parlo della spending review del governo Monti e per poi andare avanti, ma soprattutto questo è stato il passaggio critico. E da un lato un taglio lineare, dall'altro però un'azione per contrastare quella quantità positiva di competizione interna che è stata una delle cose che ha consentito al sistema di sopravvivere. Cioè contemporaneamente meno soldi e blocco alla componente privata che è quella più efficiente. Aspetti, io qua le devo fare un'osservazione a nome degli ascoltatori. Lei lo sa, perché si occupa di questo da tanti anni, che nella maggioranza degli italiani, quindi anche statisticamente tra chi ci ascolta oggi, la componente di coloro che pensano no, è sacrosanto concentrare invece risorse aggiuntive o meno tagli nella componente pubblica invece che sui privati accreditati, anche perché quelli lucrano e spesso hanno una qualità dell'offerta. Non stiamo parlando delle eccellenze come quella da cui testa lei come presidente San Raffaele, stiamo parlando, non lo so, gli accreditati che hanno il trattamento per gli anziani e così via, quello di cui si sono spesso occupate le procure. Milioni di italiani pensano più Stato e meno privati, e lo pensano la maggior parte anche dei presidenti delle giunte regionali, perché la regione che andò più avanti nel dire no, ci deve essere uno spazio aperto, una concorrenza piena e paritaria tra la componente pubblica e quella privata accreditata, con il pubblico che deve avere regole e gestione di controllo delle regole per tutte, cioè la Lombardia, è un modello che non è mai andato più giù agli altre regioni, tanto è vero che il referendum era stato fatto anche indicando esplicitamente l'obiettivo: mai più regioni come la Lombardia con la componente privata così rilevante. Aspetti, la risposta a questa considerazione a nome di chi ci ascolta, per spiegarglielo bene in maniera convincente, tra un minuto, perché abbiamo il traffico adesso. La versione di Oscar. Eccoci qui. Allora, riprendiamo con Gabriele Pellissero, presidente dell'AIUP. Perché, di fronte ai tagli lineari imposti automaticamente ai privati, lei dice che questa è una decisione sbagliata? Perché i più ci ascoltano e pensano che sia la decisione giusta se bisogna tirare la cinghia. Allora, prima di tutto chiariamo bene che cosa sono questi privati. Questi privati sono un quarto del sistema. Cioè, in Italia ogni 4 persone che entra in un ospedale va e non lo sa in un ospedale a gestione privata, imprenditoriale, non politica, non pubblica, chiamiamola come vogliamo, che però gli deve dare lo stesso tipo di prestazioni, nel senso che lui non pagherà come non paga di quello pubblico ed è soggetto grosso modo alle stesse regole di qualità. Questo tanto per chiarire come funziona. Ora, in tutta Europa questa componente è una componente che viene usata per rendere più efficiente tutto il sistema. Ovviamente, dipende da è uno strumento. Io non voglio fare il sindacalista del privato dentro la sanità, ma neanche quello del pubblico. È uno strumento. Se è uno strumento che è usato bene, può servire a rendere un servizio migliore a un costo più basso. Questa è l'opzione a cui si è rinunciato o si è cercato di rinunciare. Poi è evidente che ci sono delle regioni meglio amministrate e regioni peggio amministrate. E di conseguenza sarà meglio amministrata sia la parte pubblica che la parte privata. Guardi, le due regioni che hanno più privato dinamico nella mobilità interregionale sono due regioni diversissime, che sono la Lombardia e l'Emilia-Romagna, proprio due concetti diversi di gestire la sanità, però vedi caso, in queste regioni si determina lo stesso fenomeno, cioè il massimo livello di ricorso di cittadini da altre regioni a farsi curare e il massimo utilizzo per questo proprio di quella componente di diritto privato che evidentemente ha anche capacità di trovare denaro sul mercato, di investire, di costruire. Poi, se a parità di tariffa, cioè prendendo lo stesso soldi che piglia il pubblico, riesce perfino a fare degli utili aziendali, a questo punto bisognerebbe ragionare veramente su cos'è la gestione pubblica. Si ferma qui? No, si ferma qui, perché io volevo dare l'idea. In queste due regioni tenete conto che l'attrattività, cioè il fatto quanta gente va alla degenza ospedaliera rispetto al peso che la componente privata ha, ecco, l'attrattività in queste regioni, nel caso della Lombardia, è più che doppia rispetto al peso dei privati sul totale dell'offerta ospedaliera lombarda. Nel caso dell'Emilia Romagna è addirittura quanto? 4 volte tanto, più o meno, per il sero? Per capirci. Però vede, non è che in Italia, anche nelle regioni del sud, anche nelle regioni con più difficoltà, non ci siano le risorse per fare qualche cosa di questo genere. È un problema di scelta politica, è un problema di decisioni. Vogliamo utilizzare meglio le risorse che ci sono? Allora, rendiamo prima di tutto libera la possibilità di utilizzare l'operatore ospedaliero migliore, poi scelgono i cittadini e se non va bene lo puniremo. E questo è stato toccato dalla spending review di Monti, per cui qui c'è un primissimo problema, cioè liberiamoci di questi lacci. E in secondo luogo facciamo un discorso serio sulla qualità e sulle scelte dei cittadini. Guardi che è evidente che ci possono essere differenziazioni regionali, ma non dimentichiamoci che il paziente, il cittadino, in qualunque regione italiana, anche la più disgraziata, quando deve scegliere dove andare a farsi ricoverare, dove vive lui, ha la scelta sulle realtà che sono presenti lì. Non è che si confronta con San Raffaele di Milano. Per andarsi invece deve pigliare l'aereo e il treno, ed è una roba un po' più complicata, e anche su questo si potrebbe ragionare. E se posso dire, non c'è paese al mondo con una sanità avanzata che non abbia delle eccellenze, cioè dove non bisogna affrontarsi. Non esiste. Il futuro sarà un futuro con alcuni grandi ospedali distribuiti sul territorio, con delle reti di eccellenza e qualità, e intorno una situazione media che dà un buon servizio cittadino. Questo è ciò che un paese della dimensione come l'Italia si può permettere per poter lavorare bene. Per cui non disperiamoci, ecco, sul fatto che ci siano degli elementi di eccellenza che sono distribuiti qua là sul territorio. Questo è fisiologico. Quello che noi dobbiamo riuscire a dare è una buona risposta a livelli medi, un po' su tutto il territorio nazionale, e questo noi diciamo siamo disponibili e in grado di assicurarla a costi più bassi del pubblico dentro il sistema delle regole pubbliche. Senta, e governati sempre dal pubblico. Io penso, io penso ai milioni di italiani che vivono nelle regioni del sud, a rientro coatto per le follie fatte nella spesa sanitaria politicizzata, e che si vedono per l'effetto del processo che abbiamo prima descritto di anno in anno peggiorare la qualità dell'offerta. E stiamo parlando anche delle regioni in cui il reddito ufficiale, medio, mediano, pro capite, eccetera, è lontano fino a un terzo o addirittura ai livelli del 50% di quello del nord. Come mai il processo di rientro coatto ha pensato solo ai saldi finanziari e non anche alla qualità dell'offerta in quelle regioni? Questo bisognerebbe andarlo a chiedere a chi ha gestito questo processo. E chi ha gestito questo processo è stato larghissimamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fatto un buon lavoro per la sua parte, perché dal punto di vista contabile sicuramente ha portato a casa un risultato. Ma qui purtroppo è mancata l'altra metà del problema, cioè la capacità di disegnare un modello di erogazione diverso. E questo è veramente la criticità che noi lamentiamo da molto tempo, nel senso che ci sono, guardi, poche cose importanti che si possono fare per migliorare questa situazione, che potrebbe migliorare, non è una condanna, è semplicemente quello di fare una scelta. E però, se vogliamo difendere l'indifendibile, cioè le sacche di inefficienza pubblica che ci sono e molto diffuse, e non abbiamo il coraggio di chiuderle per spendere questi soldi per pagare chi, pubblico o privato, dà veramente le prestazioni sanitarie ai cittadini, se manca questo coraggio e questa capacità, qui purtroppo temo che se ci sentiamo fra 10 anni faremo lo stesso. Temo anch'io, purtroppo, se non addirittura peggiorati. Sentiamo come la pensa la nostra ascoltatrice che ci ha telefonato, Ilaria da Perugia. Ilaria, prego. Buonasera. Io volevo semplicemente fare una considerazione. Cioè, per chi supera la fascia massima di reddito, sì, le prestazioni presso il pubblico, di cui peraltro io sono una fautrice, quindi cerco sempre di andare a vedere prima lì, costano addirittura meno in alcune circostanze. Quindi, ecco, mi sembra una scelta di marketing o politica o di gestione assolutamente fallimentare, che tu ti privi della fascia che può pagarti perché gli rendi più conveniente. Che dice, che dice Pelissero a questo paradosso segnalatoci dalla nostra ascoltatrice? Ma guarda, tutta la vicenda che te intramegna è una vicenda, a mio giudizio, non molto ben gestita, diciamo la verità, per cui sicuramente qui dovremmo andare a prendere una situazione molto complicata che ha anche dei risvolti professionali, sindacali. Quindi c'è un freno dentro la stessa componente pubblica ad attivare elementi di managerialità, e questo è un grosso guaio, nel senso che invece sì, guardi che qui 20 anni fa si era detto trasformiamo gli ospedali pubblici in aziende ospedaliere pubbliche, ma facciamole ragionare con la logica aziendale in modo che guadagnino e non perdano. Questo discorso si è fermato. C'è un tentativo dall'ultimo anno, bisogna dirlo onestamente, del governo di rimettere un poco in movimento questa macchina, andando a fare le pulse ai bilanci. E vedremo che fine farà Pelissero, perché qui mi pare che pensano a elezioni dietro l'angolo. Quindi, comunque, io ringrazio Pelissero, i temi sono tantissimi in queste 270 pagine. Pensate che però la sanità non è solo quella pubblica, ci sono gli accreditati privati che sono una componente fondamentale e che è sbagliato colpire. Continuate su Radio 24, grazie a Pelissero, appuntamento alle 8:20 domani con me, Alessandro Milan.